Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Francesca Mezzadri. In questa puntata, le misure per il contrasto alla violenza contro le donne, lo stato di salute dello sport in Emilia Romagna. Ma partiamo dall'Europa e dalle opportunità che i fondi dell'Unione possono rappresentare per il rilancio dell'Emilia Romagna. Un convegno in Viale Aldo Moro è stata l'occasione per presentare i nuovi programmi regionali e le ricadute del PNRR sul territorio. I fondi europei che arriveranno in regione da qui al 2027 sono oltre 3 miliardi di euro, 900 milioni in più rispetto al precedente settennato. A questi si aggiungono le risorse del PNRR, ad oggi quasi 5 miliardi di euro assegnati, per un totale che sfiora gli 8 miliardi di euro. Sentiamo Valentina Castaldini di Forza Italia. Adesso il nostro compito è quello di guardare le emergenze, comprendere che le materie prime costano moltissimo ed è difficile fare i bandi, bisogna pensare a tutti i colli d'imbuto, fare in fretta, farlo bene e soprattutto il PNRR ci chiede di fare riforme. Questo è il compito della politica. L'Emilia Romagna punta ancora su Bruxelles per il rilancio post coronavirus e per far fronte all'impennata dell'inflazione che sta facendo crescere in maniera drammatica il costo delle bollette di luce e gas. Le parole della Presidente dell'Assemblea, Emma Petitti. Transizione ecologica, transizione digitale, sostegno alla coesione sociale e al lavoro. Ci sono ambiti fondamentali su cui abbiamo costruito progetti con i nostri territori e adesso l'obiettivo è tenere insieme la programmazione europea che è fatta di fondi strutturali e piano nazionale di ripresa e resilienza. E a proposito di Europa, la Commissione Bilancio, presieduta da Massimiliano Pompignoli, ha approvato una risoluzione che valuta positivamente la proposta di direttiva europea sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. La direttiva propone un quadro unitario delle norme a livello di tutti i Paesi membri. Ecco il commento di Roberta Mori del Partito Democratico. Come noi facemmo, come Emilia Romagna nel 2014, si propone di rendere organico e integrato tutto il sistema di protezione e di prevenzione contro la violenza sulle donne. Noi semplicemente come maggioranza abbiamo presentato un emendamento relativo ai centri per uomini autori di violenza, cioè vogliamo che i centri per uomini autori di violenza siano in linea con la protezione delle vittime e si coordinino nella loro azione con i centri antiviolenza. Rimaniamo in tema di contrasto alla violenza di genere. La Regione ha messo nero su bianco gli interventi attuativi per il piano regionale antiviolenza. Sviluppo del sistema regionale e territoriale di contrasto alla violenza di genere, protezione e sostegno alle donne maltrattate e ai loro figli, formazione nelle scuole ma anche formazione specialistica per gli operatori. Diverse le misure contenute nel documento illustrato in Commissione Parità dall'assessora Barbara Lori. Abbiamo sentito Federico Amico, di Emilia Romagna Coraggiosa. Gli elementi più rilevanti che sono emersi credo che siano particolarmente indicativi dell'orientamento anche della Regione nel suo complesso sono sicuramente il rapporto con l'Ufficio Scolastico Regionale e soprattutto la parte integrativa dal punto di vista economico del reddito di libertà che ha consentito di poter accedere a una misura importantissima per conseguire l'autonomia economica. E sempre sul reddito di libertà sentiamo le precisazioni di Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle. Ci sono aspetti positivi che riteniamo positivi, che sono per esempio la formazione per esempio per mediatori e mediatrici culturali, gli insegnanti, per diffondere la cultura del rispetto anche nelle scuole e anche coinvolgendo i ragazzi. C'è un aspetto però critico che è quello delle risorse per quanto riguarda il reddito di libertà, risorse che sono insufficienti da parte dello Stato e che la Regione meritoriamente ha integrato con 1.300.000 euro andando a coprire più di 250 richieste. Su questo bisognerà lavorare per rendere questo intervento strutturale. Dalla Lega, apprezzamento particolare per le azioni di prevenzione delle violenze di genere rivolte alle giovani generazioni e alcune sottolineature. Ecco il commento di Valentina Stragliati. Primo, un plauso per quanto concerne il coinvolgimento degli studenti nella diffusione in ambito scolastico di una cultura di genere, ma io ci tengo a precisare, è importante diffondere la cultura del rispetto nei confronti dell'altro inteso come diverso da sé. Ho evidenziato la necessità di potenziare anche i centri dedicati agli autori di reato e ai maltrattanti e di potenziare la dotazione finanziaria in supporto agli enti locali che che devono sostenere spese per la messa in protezione delle donne vittime di violenza. Per Europa Verde è fondamentale anche la formazione di chi opera nelle strutture alle quali si rivolgono le donne maltrattate. Un aspetto contenuto anche nella proposta di direttiva europea, come ha sottolineato la capogruppo Silvia Zamboni. La Regione Emilia-Romagna investe molto di più di quanto non metta lo Stato per tutto il Paese, quindi già diciamo sulla strada buona, sicuramente rinforzare ulteriormente i finanziamenti non può che portare ad ulteriori atti di liberazione delle donne da situazioni di costrizione dove restano perché appunto hanno la dipendenza economica da chi le maltratta. E adesso parliamo di sport. La pandemia non ha fermato la voglia di fare sport degli emiliano-romagnoli, anche se ha cambiato le loro abitudini. Aumenta infatti lo sport fai da te. Il dato emerge dalla ricerca sullo stato di salute della pratica sportiva in Emilia-Romagna, presentata in Commissione Cultura e Sport. Abbiamo sentito Stefania Bondavalli della lista Bonaccini presidente. Ci sono buone notizie, il 73% pratica sport e questo è un dato sopra i livelli nazionali. Poi c'è un altro dato interessante alla luce della pandemia, cambia il modo di fare sport, molto più destrutturato, quindi fuori dalle società sportive. Anche questo è un dato su cui riflettere alla vigilia anche della stesura del piano triennale per lo sport. Nel 2022 in regione si è registrata la percentuale più alta di cittadini che praticano sport e una riduzione di quelli sedentari, anche se restano comunque circa 1 milione. In Emilia-Romagna ci sono 6.000 impianti sportivi e 17.000 spazi, il 20% in contesto scolastico e per l'85% accessibili a persone con disabilità. Il caro bollette rappresenta un'emergenza anche per questo settore, come ha fatto notare in commissione Andrea Liverani della Lega. Chiaramente i costi incidono anche sulle famiglie, magari chi ha un ragazzo che è abituato ad andare a fare sport, a portarlo, tipo ad esempio nel calcio, a una quota associativa da 150 euro, ci arriva a casa una bolletta salata, il rischio è che magari non posso più portare il figlio a fare sport. Questo non deve accadere. Cambiamo argomento. L'Emilia-Romagna è la prima regione in Italia per somministrazioni della quarta dose di vaccino anti-Covid. 28,3% sulla popolazione target rispetto al dato nazionale che è il 17%. Intanto si stanno già somministrando i vaccini cosiddetti bivalenti. A riferire questi dati è stato l'assessore Raffaele Donini, intervenuto in Commissione Politiche per la Salute. Nella stessa commissione si è anche discusso un'interpellanza presentata da Marco Mastacchi di Rete Civica sui problemi della sanità in montagna. Sentiamo cosa ha chiesto alla Giunta. Già la sanità aveva problemi precedentemente il Covid, poi tutte le riorganizzazioni delle attività che sono state messe in campo per sopperire all'emergenza hanno ulteriormente aggravato la situazione. Io ho chiesto all'assessore un'audizione dei sindaci e dei presidenti di distretto della montagna per poter rappresentare tutte le difficoltà che in questo periodo stanno vivendo. Una sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre ai figli. In proposito, l'Assemblea legislativa ha approvato una risoluzione per sollecitare il Parlamento a legiferare per gestire tutti gli aspetti che derivano dalla sentenza stessa. Antonio Mumolo del Partito Democratico è il primo firmatario del documento. Sentiamolo. Non è chiaro cosa si può fare adesso, se si può dare il cognome del padre, se si può dare il cognome della madre, se si possono dare ambedue i cognomi. Siamo in una situazione in cui è necessario legiferare. Io ho sollecitato la Regione Emilia-Romagna affinché, rispetto a questa grande innovazione nel diritto italiano, chieda al governo finalmente di arrivare a una legge. Ascoltiamo anche le parole di Michele Barcaiuolo di Fratelli d'Italia. C'è una sentenza della Corte Costituzionale che chiede di intervenire, quindi sarà il legislatore nazionale nella prossima legislatura, immagino, a intervenire su questo. Tuttavia è chiaro che non siamo contrari alla possibilità per una famiglia di scegliere di attribuire il cognome della madre, ma questo va regolamentato meglio e soprattutto costruito bene rispetto alle future generazioni, proprio per evitare complicazioni. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea legislativa, seguiteci sui profili social e sul sito assemblea.mr.it. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia-Romagna, programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.